A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Sognavo libertà, sognavo l'Australia, a vita può cambiare, a canterò. Una donna che si ribella alle regole del clan, l'onore infranto da vendicare e una morte ancora tutta da chiarire 30 anni dopo. Quella di Rosalia Pipitone è la storia di una giovane madre che non voleva più essere la figlia di un mafioso, che provò a fare la sua vita con l'uomo che scelse e col figlio che ebbero, ma che pagò con la morte la disobbedienza alle regole della casa. Ora, 30 anni dopo, una nuova inchiesta cerca di ricostruire davvero chi e perché volle la morte di quella ragazza ufficialmente uccisa per sbaglio durante una rapina il 23 settembre dell'83 e ufficialmente un suicidio fu pure la morte del suo amico del cuore, gettato invece dal quarto piano del palazzo. Ma dopo due processi che diedero questa lettura la caparbietà del figlio e un'inchiesta divenuta anche un libro, porta la procura di Palermo a riaprire le indagini, anche grazie alle nuove rivelazioni del pentito Angelo Fontana, rivelazioni che nei primi procedimenti arrivarono tardi, come ricorda Alessio Cordaro, figlio di Lia. In realtà all'epoca ci sono stati degli elementi che purtroppo arrivarono in giudizio troppo tardi, quando i processi che ovviamente si occupavano anche della vicenda di mia madre erano già chiusi. Una di queste furono delle dichiarazioni di uno dei collaboratori di giustizia dell'epoca, che appunto enunciò che questa rapina in cui mia madre sfortunatamente ne fu vittima e quindi fu uccisa, in realtà era una messa in scena. Purtroppo io personalmente oggi non ho elementi che possano dare maggiori conferme o comprovare questa tesi. Certo mi risulta difficile credere che sia frutto interamente della fantasia di questo collaboratore di giustizia che è Angelo Fontana. Nello stesso tempo la vicenda, se vista nei dettagli, lascia molti aspetti e molte domande alle quali oggi purtroppo bisognerebbe dare risposta, perché fanno sì che non sia effettivamente chiaro, fanno dubitare che quella che possa essere ad oggi considerata una casualità sfortunata in realtà sia ben altro. La mafia non perdona, odio vendetta cova, su tutto può comandare, a vita dei genti può soffocare. Tutto quel che si cela dietro la casualità sfortunata è una storia invece di mafia e di onore nella Palermo di affari e picciotti, dove le ville storiche venivano abbattute e le giovani donne, come Lia, venivano uccise se non obbedivano. E questo anche col tacito consenso del padre. Una storia ripercorsa ora dal figlio Alessio Cordaro insieme a Salvo Palazzolo nel libro che ha contribuito alla riapertura dell'inchiesta Se muoio, sopravvivimi. Verso di una poesia di Neruda, verso forse profetico, amato da Lia che si preoccupava per il figlio mentre cercava di allontanarsi da quel gorgo di morte e affari che vedeva intorno a sé a Palermo. Il padre Antonino Pipitone in quel momento era in ascesa insieme al cognato Tommaso Cannella, consigliori di Bernardo Provenzano, si aggiudicavano i lavori per la distruzione delle ville Liberty, per il sacco di Palermo, mentre allevavano squadre di spietati killer che faranno strada in Cosa Nostra. Da tutto questo Lia tentò di scappare, prima col suo uomo, poi con un nuovo amico che morì poche ore dopo di lei. Ma Lia, per la giustizia, non è ancora una vittima di mafia e questa ora è la battaglia faticosa del figlio Alessio. Mi sembra rendere simile, io sono veramente molto lontano da quelle che sono le logiche di Cosa Nostra e delle famiglie che ne fanno parte. Posso provare a immaginare, grazie alle indagini che abbiamo potuto seguire, che effettivamente mamma avesse semplicemente voglia di vivere la propria vita e di fare le proprie scelte. Purtroppo ho avuto modo di apprendere che spesso e volentieri, laddove queste scelte non siano condivise dal proprio padre, ovviamente parliamo strettamente degli ambienti mafiosi, quindi laddove la propria famiglia non approvi determinate scelte, non c'è una seconda possibilità, un piano B da seguire per trovare una via di mezzo, un punto di incontro. Penso che fin quando questa voglia di libertà di mia madre sia rimasta all'interno delle proprie mura domestiche era un qualcosa che è riuscita a controllare, ma probabilmente nel momento in cui se ne iniziò a parlare nel quartiere o ancor più ampiamente in città, possa aver dato fastidio l'idea di una figlia che comunque combattesse costantemente quelle le idee del proprio padre e imposte da Cosa Nostra in questo caso. Una tra tante, provo a immaginare l'idea di aver scelto l'uomo con cui vivere e da sposare, e probabilmente a un primo impatto questo non era ben voluto da parte dei suoi genitori. Sua madre, appunto, decise prima lei in autonomia quale dovesse essere il suo, diciamo, compagno di vita, poi così con coraggio e con un gesto che, collocandolo nella Sicilia degli inizi anni 80, ha il sapore di una ribellione, decise appunto di andare prima al di fuori dell'isola, poi ci tornò, poi divorziò. Che cos'è che soprattutto il padre di sua madre, quindi suo nonno, e tutto l'ambiente circostante non le ha perdonato? Io ho avuto modo di apprendere in realtà che nell'ultimo anno di vita, probabilmente questo suo primo traguardo di poter scegliere dove vivere, la persona con cui vivere la propria quotidianità, già non era vista di buon occhio. Probabilmente, provo a immaginare, perché mio padre non apparteneva ai medesimi ambienti da cui proveniva mia madre. E successivamente, voglio immaginare, e quello che proviamo a indagare è quello che viene detto ai collaboratori di giustizia, l'idea di già solo poter pensare di separarsi con il marito non aggravò questa situazione già abbastanza critica di sé per sé. La morte di sua madre passò per una finta rapina, ma l'indomani anche un amico, appunto, un amico caro a sua madre, fu gettato dalla finestra del quarto piano, fingendo quasi un suicidio proprio per amore. A tutt'oggi mamma risulta vittima della criminalità comune e la persona di cui lei mi parla, che è Simone Di Trapani, un carissimo amico, da quanto mi raccontano di mamma, risulta che abbia perso la vita in un suicidio. Anche qui il collaboratore di giustizia, che all'epoca rivelò la dichiarazione su mia madre, che in realtà era stato una messa in scena, disse per quanto riguarda il Di Trapani che in realtà anche quella era una simulazione e che in realtà fu buttato. Molte dinamiche di quello che è accaduto non sono chiare, si vincono sia dai verbali che dai resoconti della magistratura. Spero vivamente che, oltre a dare giustizia a mia madre, se anche Simone effettivamente si è trovato nelle condizioni di essere vittima di Cosa Nostra, venga riconosciuto come tale. Parliamo di anni in cui, diciamo, i referenti anche mafiosi di quella zona palermitana avevano nomi pesanti, appunto. Antonino Pipitone, il padre di sua madre, era il cognato di Tommaso Cannella, che era appunto uno degli uomini più vicini a Bernardo Provenzano e braccio destro dei Galatolo. Intorno a loro c'erano altri nomi che le cronache giudiziarie mafiose avrebbero poi ricordato, come Pino Greco, poi c'è il clan dei Madonia, dei Cucuzza, ecco, mamma santissima della mafia, che dall'altra parte incombono nella vita di una giovane donna negli anni 80, nell'Italia che in quel momento si affacciava a tutt'altra dimensione di vita. Sua madre era consapevole dei rischi che correva con le sue scelte? Mi piace pensare che non avesse una chiara prospettiva di quelle che potevano essere le conseguenze, e ha semplicemente scelto di vivere la sua vita così come lei lo riteneva opportuno. Mamma piaceva tantissimo scrivere e purtroppo pochi giorni prima, e a questo non so dare una risposta, decide di strappare e gettare via tutte le lettere. Di queste ad oggi sono riuscito a recuperarne solo due. Una che parla della sofferenza di mamma quando si trovò a perdere a sua volta sua madre, e un'altra che mi racconta solo una vicissitudine quotidiana a papà. Non riesco a spiegarmi perché abbia voluto distruggere tutto pochi giorni prima della sua dipartita. Quindi, se non ha nulla di scritto, anche delle ansie possibili, immaginabili, che forse viveva o forse no, diciamo, nei travagli della sua vita, ecco, la vicenda e le scelte di vita di sua madre e poi anche tutto ciò che c'è intorno ai misteri intorno alla sua morte, come sono stati raccontati? Nell'ambito familiare non abbiamo mai parlato nei dettagli. Questo era totalmente superfluo, considerato che a sopperire a questa necessità di informazione ci pensavano sufficientemente i media, anche i risvolti giudiziari. È comprensibile che i discorsi che nascevano erano riferiti principalmente a mia madre, che questi fossero comprensibilmente addolciti. Lei ha mai conosciuto il padre di sua madre? Ovviamente sì. questa inchiesta sembra avere dietro il quantomeno il tacito consenso, forse, del padre di sua madre, quindi di suo nonno, anche nella morte di sua mamma. Credo che questo sia un ragionevole dubbio. Ci sono parecchi aspetti che non risultano chiari in questa vicenda, dal tipo di pistola utilizzata per la rapina, al fatto che i rapinatori non scapparono immediatamente dopo aver intascato il bottino, il fatto che successivamente alla morte di mia madre, come purtroppo succede spesso in questi ambienti, i risvolti sono spesso e volentieri drammatici. Questo, ripeto, penso che stori in me un ragionevole dubbio sul fatto che comunque il padre di mia madre possa aver avuto un ruolo in questa vicenda. Mi risulta difficile pensare che ne fosse all'oscuro, come mi fu dichiarato all'epoca. Non mi sento nemmeno di dire che ne sia parte in causa in prima persona. Rosalia Pipitone ufficialmente non è una vittima dei boss, ma una delle tante lapidi nascoste tra i vicoli di Palermo. E lì torniamo nella seconda parte di A ciascuno il suo, in quel giardino di vicolo Pipitone dove crescevano arance ma anche spietati killer. A ciascuno il suo. Se muoio, sopravvivimi con tanta forza pura, che desti la furia del pallido e del freddo. Da sud a sud, leva i tuoi occhi indelebili. Da sole a sole, suoni la tua bocca di chitarra. Non voglio che vacillino il tuo riso o i tuoi passi. Non voglio che muoia la mia eredità d'allegria. Non bussare al mio petto, sono assente. Vivi in mia assenza come in una casa. È una casa tanto grande l'assenza che ventrerai traverso i muri e appenderai i quadri all'aria. È una casa tanto trasparente l'assenza che senza vita ti vedrò vivere e se soffri, amor mio, morirò un'altra volta. Sembra un po' inverosimile, ma qualcosa di profetico questo titolo, e l'abbiamo ritenuto opportuno proprio perché fosse... perché era il titolo della poesia preferita di mamma. Se muoio, sopravvivimi. È ora anche il titolo del libro di Alessio Cordaro, figlio di Lia Pipitone, per rileggere la storia della vita e soprattutto della morte della madre. Una ragazza di 25 anni che in quell'estate dell'83 fu solo l'85esimo omicidio a Palermo, sia pur camuffato da una rapina. Come un suicidio per amore doveva sembrare anche la morte del suo amico del cuore, precipitato dal quarto piano. In realtà Cosa Nostra volle la loro fine per punire la ribellione alle regole d'onore, come sta raccontando un pentito Angelo Fontana, che ha contribuito a far riaprire l'inchiesta. E quei delitti furono decisi anche col tacito consenso, almeno, del padre di Lia, quell'Antonino Pipitone che insieme al cognato Tommaso Cannella era il riferimento di un clan allora potentissimo, come scoprì Giovanni Falcone con l'arresto di un riciclatore professionista. Cosa Nostra non poteva accettare che proprio una di famiglia non obbedisse. E anche oggi, 30 anni dopo, non è stato facile per Alessio, figlio di Lia, far accettare alla famiglia la sua voglia di chiarezza nella storia della madre. Come l'hanno presa questo libro all'interno della famiglia? Indubbiamente non ne sono stati entusiasti come prima acchito, ma mi sono tutti vicini, chi più... chi meno preoccupato, e penso che questo sia anche un fattore molto comprensibile, ma hanno tutti approvato la mia scelta e mi sono tutti accanto. Indubbiamente un qualcosa di molto importante per me, anche per proseguire la strada che ho appena intrapreso. Lei ne ha mai parlato direttamente della storia di sua madre con suo nonno? Erano anni terribili quelli per Palermo, la morte di sua madre fu l'85esimo delitto e non sarebbe stato l'ultimo di quell'anno. In quelle cronache, diciamo, nelle cronache di quegli anni, anche il nome di suo nonno in qualche modo, diciamo, appare. Lei ne ha mai parlato con lui direttamente della vicenda di sua mamma? No, assolutamente no. Più di una volta mi sono posto nelle condizioni di voler affrontare il discorso, ma non posso nasconderle che ho temuto la mia reazione, quella di poter a sua volta diventare cattivo io, laddove la consapevolezza di quello che poteva essere successo non rispecchiasse quello che poteva essere giusto per e normale in realtà. Non ho avuto mai il coraggio di chiederglielo, ho per me dire, la prima volta mi sono posto nelle condizioni di farlo, ma all'ultimo momento ho sempre desistito. Per cui non ho mai affrontato chiaramente questo argomento, fermo restando che in realtà le mie occasioni negli anni della consapevolezza di incontrare il padre di mia madre sono veramente pochissime. Nel periodo adolescenziale, in cui probabilmente non avevo piena consapevolezza, era un onere dover vedere la famiglia materna almeno una volta l'anno nel periodo estivo, ma esulata queste casistiche, poi non avevo molte occasioni e quelle che ho avute sinceramente non le ho sfruttate in tal senso. Spesso le storie di persone, di donne che decidono in qualche modo di ribellarsi alle regole anche della loro famiglia, hanno anche subito dopo la morte una forma di damnatio memoriae. Mi viene in mente ad esempio la vicenda di Rita Atria, era una storia diversa, lei era stata una giovane collaboratrice di giustizia che nel momento in cui si tolse la vita fu anche da morta, diciamo, rinnegata dalla sua famiglia. Tutto questo è successo anche con sua madre? La cosa che più mi rattrista è che appunto i ricordi e le vicissitudini di mamma riguardano esclusivamente l'ambito familiare. Mi dispiace dirlo, ma purtroppo Palermo negli anni si è dimenticata un po' di mamma, di questo ne accuso pure io la responsabilità, perché è una storia che negli anni, quando presumevo di aver preso consapevolezza di che cosa era successo e perché che ho voluto custodire gelosamente. Ho avuto anche tristemente la possibilità di venire a conoscenza di tante altre vicende come quella che mi raccontava lei adesso, e credo che ce ne siano veramente tante sparse in Italia di storie simili a mia madre. Io un'altra speranza, che le dico con molta sincerità, che nutro e che possa essere da stimolo per persone che si trovano in condizioni simili a ribellarsi, a riprendersi la propria libertà. Le foto di sua madre sono rimaste nelle case, spesso quelli sono i segni un po' del tentativo di dimenticare una persona che è uscita dalle regole del clan, dalle regole della famiglia. Questo non è successo in casa vostra? No, assolutamente. Tutto quello che ho io di mia madre lo conserviamo gelosamente e non è mai stato nascosto né in famiglia né esternamente. La vicenda in sé per sé nuda e cruda, non se n'è mai fatta propaganda aperta, però comunque ricordo di mia madre è praticamente presente sia nella quotidianità della mia vita, di mio padre, dei miei familiari, sia da un punto di vista di oggetti che di immagini, assolutamente sì. Lei ha già detto che una delle ragioni che l'ha portata a scrivere questo libro è anche quella che possa essere un messaggio indiretto nei confronti di altre persone, di altre donne, di altre famiglie che si possono trovare a vivere situazioni analoghe a quelle vissute da sua mamma, che decise, diciamo così, di togliersi da dosso le imposizioni che le regole, la famiglia, il clan, la Sicilia di quegli anni le imponevano. Una vicenda che ha delle similitudini anche con quelle che ad esempio alcune collaboratrici di giustizia in Calabria stanno affrontando, hanno affrontate alcune già drammaticamente, decidendo anche loro a loro volta di andare contro, diciamo, le regole che avevano avuto in eredità. Sì, mi piace pensarlo questo, anche se riesco a concepire anche che non sia facile, perché effettivamente si trova a vivere quotidianamente quella realtà. Non deve essere facile alzarsi un giorno e volerne uscire fuori, anche perché non è una cosa che ti viene permessa. Per questi ambienti o rispetti e condividi le loro idee, oppure sei un loro nemico, non c'è una via di mezzo. Se dovessero arrivare ad appurare, ma che effettivamente ci sia un collegamento tra Cosa Nostra, tra la malavita e la sua uccisione. L'obiettivo è vostro, è quello in questo momento, è quello di rileggere sotto una luce diversa la storia della vita e della morte di sua madre, anche per arrivare ad avere un riconoscimento di vittima di mafia. Laddove questo corrispondesse a verità, assolutamente sì. Il mio primo scopo è sapere la verità, qualunque essa sia, e sinceramente il timore più grande per cui ne parlavamo anche prima è quello che ci possano essere tante altre storie dimenticate delle quali non si parla, delle quali non si sa che ci siano attinenze con lui alla criminalità organizzata. Li chiamavano uomini di rispetto i volti che giravano intorno al vicolo Pipitone, la zona dove Rosalia viveva da ragazza e dove la sua morte fu decisa insieme agli affari del sacco di Palermo, come ricorda il figlio Alessio. Parecchie di queste vicissitudini erano per me, sono state per me informazioni totalmente nuove, probabilmente perché nell'età dell'inconsapevolezza ovviamente non avevo la possibilità di apprendere queste notizie, e la vena protettiva dei miei familiari ha fatto sì che io inizialmente ne rimanessi all'oscuro. Quando ho avuto modo di comprendere ciò, come dicevo poc'anzi, probabilmente mi sono un attimino richiuso in me stesso e ho ripudiato questa realtà. Oggi ringrazio Salvo di avermi dato la possibilità di entrare a conoscenza di tutto ciò, per quanto sia difficile da affrontare, non le nascondo che ancora ho qualche difficoltà a prenderne piena consapevolezza, soprattutto da un punto di vista emotivo, e devo essere sincero, le dirò con molta franchezza che l'aspetto puramente pratico di queste situazioni possono solo addolorarmi per quella che è la realtà di Palermo in cui viviamo tutti i giorni, ma non la stupiscono, diciamo. E l'ultima cosa che le chiedo è, per ritornare ancora appunto a questo bel titolo, Se muoio sopravvivimi, il verso di una poesia di Neruda, è legata a un suo ricordo personale? Mi hanno spesso e volentieri parlato di mamma, e una delle cose che ho avuto modo di apprendere, che mi hanno tramandato, erano le cose a cui lei era più legata: l'amore per il disegno, per la musica, per la poesia, piaceva tantissimo leggere e scrivere, e tra le varie cose che ho avuto modo di apprendere grazie ai miei parenti, ma tantissimo grazie a mio padre, è questa poesia che lei amava particolarmente, nonché Wish You Were Here dei Pink Floyd. Anche lì sembra paradossale, però il titolo di questa canzone ci riporta alla realtà di oggi. A ciascuno il suo, termina qui. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa, come tutte le altre puntate, dal sito radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.